Se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza dei produttori di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda cosa trattata. Ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni ambientali. Tutto il mondo si beve caffè. Ed eccoci qui, 87.9 in FM, Radio Onda Rossa, 17.3, state ascoltando Caffè Doppio con la prima puntata. Ciao a tutti e tutte. Ciao a tutti. E allora, continuiamo, insomma, dopo la nostra bellissima sigla, ringraziamo Ollol, Lollo, Collo, o come si voglia lui chiamare. Insomma, questa sigla fatta lì sul momento, ma che a noi ci è piaciuta tantissimo, ci dovevate vedere ballare qui in studio. Ma niente, insomma, noi per questa prima puntata vi volevamo spiegare un attimo quello che volevamo fare. Ma sicuramente voi vi sarete appena svegliati, immagino, dal post sbornia di ieri e non pensate che noi abbiamo fatto diversamente. Perciò ascoltatevi questo pezzo molto rilassante degli Air e poi andremo a parlare un po'. Ed eccoci di nuovo in collegamento, questa è Radio Onda Rossa 87.9 FM, Sono le 17 e 7 minuti e questo è Caffè Doppio! Sì, questo caffè doppio che ci serve assolutamente per svegliarci dalla serata di ieri. Ci dovevate vedere camminare nudi sul Lungotevere ieri, io e lui da soli, vero? Ma stavamo in motorino? In motorino? Sì. No, stavamo a cavallo di un rinoceronte. Questo me lo ricordo. Alato. Alato, perfetto, sì. Esattamente, allora 17 e 7 minuti. Insomma, noi naturalmente ci conosciamo, nel senso ci conosciamo da diverso tempo, ci siamo visti per organizzare questa trasmissione, ma per rendere la cosa un po' più piccante, un po' più divertente, faremo finta che non ci conosciamo e ma ci come faccio a fare finta di non conoscerti? Ti ho visto piccolo, ti ho visto quando eri bambino. No, allora, piacere, io sono Tameto. Io sono DVX. DVX, piacere. Come ti chiami? David. DVX, no? No, David. David, sei sicuro? Sì, va e te? Bene. Io Tameto. Ok, va bene. Allora, mentre scorre questo sottofondo, insomma, noi chi siamo? Siamo due giovani musicisti, innanzitutto, oltre che due cazzoni che vi fanno compagnia la domenica pomeriggio. E, abbiamo suonato diverso tempo insieme, insomma, adesso basta con le cazzate. Abbiamo suonato per diversi anni insieme e ci siamo trovati ad affrontare il mondo della musica, il mondo della musica emergente, no? E quindi niente, insomma, siamo molto grati a Radio Onda Rossa per averci dato questo spazio che ci permette di esprimere le nostre idee, soprattutto sulla musica emergente. Noi non andremo a parlare solo di questo, parleremo di tutti i generi di musica di oggi, di ieri, di domani e se vi pare anche di dopodomani, no? Sì, anche dell'altro ieri, se vogliamo mettere proprio. Esatto, l'altro ieri, bravo. E quindi niente, ci piacerebbe parlare di musica. Io tornerei indietro a quel fatto di essere cazzoni. Io lo sottolineerei, giusto per far capire alle persone che siamo due cazzoni, è vero. Sì, questo molto, insomma, ci dispiace. Speriamo che non vi dia fastidio, ma che vi faccia semplicemente ridere. Dalla regia ci dicono ok, comunque. Ok, sì, dai. Dai, è così. E quindi niente, nelle prossime puntate anche ci saranno diversi invitati, direi, ci sarà modo di confrontarsi con parecchi musicisti, no? Sì, musicisti che hanno dai 15 ai 30 anni e inizieremo a scoprire il mondo della musica emergente dalle radici, anche della musica emergente di una volta. Sì, certo, perché è interessante anche vedere come cambiano i tempi, no? Insomma, il mondo della musica emergente, soprattutto in Italia, è un mondo un po' di cacca per essere fini e perciò niente, ci piace parlarne anche per cercare di cambiarlo. Nel senso, questa radio è comunque uno strumento che può essere molto utile ai giovani musicisti. E intanto però sento che va in diretta un bellissimo pezzo che io stesso ho scelto. E ieri cantavo a squarciagola, fischiettavo e tutti mi volevano fermare. Vi faccio ascoltare questo motivetto, così vi entrerà in testa anche a voi. Allora forse vi siete dimenticati come vanno le cose qui in radio. Insomma, vi ripeto il numero di telefono: 0649 1750. Fate bruciare questo telefono per questo motivetto che vi starà bruciando il cervello. Questa è Creep Radiohead. Eccoci di nuovo in collegamento con Caffè Doppio, Radio Onda Rossa 87.9 FM, sono le 17:16 minuti. Beh, direi che è giunta l'ora di iniziare questa intervista. Beh sì. Allora, che cosa mi dici della tua esperienza musicale? Niente. Perché niente? No, vabbè, te la racconto, ma niente, io da sempre ho avuto una grande passione per la musica, insomma. Sono cresciuto con i grandi degli anni 70, con il rock che ascoltavano anche i miei genitori. Facci qualche esempio. Ma non lo so, in realtà da molto piccolo ascoltavo i Red Hot Chili Peppers parecchio. Poi insomma ho cominciato ad ascoltare King Crimson, il banco un po' più tardi, Jethro Tull, tutte le mattine mio fratello che doveva andare a scuola si svegliava prestissimo. Una vita da progressivo. Sì, una vita da progressivo, esatto. E, niente, perciò così poi ho cominciato a suonare il flauto dolce, no, non alle elementari, ma proprio, cioè, andavo a scuola, ero pure diventato parecchio bravo. E poi la carriera musicale un po' più seria è iniziata quando ho iniziato a suonare il sax a 10 anni più o meno, direi. E niente, alla scuola di musica a un certo punto mi sono inserito in un laboratorio di musicanti che ti dovresti ricordare perché c'eri anche tu. Non ne sono sicuro. Vagamente. Stavano i neuroni che ti sei bevuto ieri sera. Quel ricordo. Quali neuroni? Tu non hai neuroni, giusto, me l'ero dimenticato. E niente, sì, perciò ho cominciato a suonare in questo laboratorio. E da che c'era un piccolo gruppo di 3 musicisti che mi ha chiesto di fare un concerto con loro suonando una cover. E da quella cover poi insomma gli è piaciuto lo splendido caldo suono del mio sax e mi hanno... Diciamo che ci sei piaciuto più te come persona, sei molto bello, è per quello che ti abbiamo messo nella band. Mazza, una confessione in diretta, dai. Sì, sì, io lo amo questo uomo. Ti amo anch'io, ma questo, insomma, te lo dico meglio sì, dopo. Sì, ma non mi accarezzare, per favore. Ok, perfetto. E niente, perciò abbiamo cominciato a suonare con questo gruppo, all'inizio divertendoci, andando in giro per locali, poi niente, spingendo molto, suonando molto, facendo concerti sempre di più alto livello, eravamo arrivati, insomma, a un punto discreto, insomma, avevamo imparato tante cose, avevamo avuto la possibilità di... capire parecchie cose, ma poi il nostro chitarrista purtroppo si è dissociato dal gruppo, insomma, in realtà è andato a studiare in un'altra città e perciò non abbiamo potuto continuare a suonare. Io mi sono buttato sullo studio del teatro. Comunque sono stato, diciamo, 3 anni nel mondo della musica emergente in Italia e vi posso dire che è veramente un mondo di merda. E... diciamo che molti emergenti la pensano in questo modo. Sì. Non sei solo te che la pensi così. E vi ripeto che è anche per questo che abbiamo voluto iniziare questa trasmissione. Insomma, noi vogliamo un attimo analizzare e dare spazio a questi gruppi emergenti che troppo spesso vengono scavalcati dalla musica commerciale. E dare spazio alla loro voce, dare spazio alla musica emergente. E adesso, dato che è iniziato da poco il 2012, questo anno di terribili sventure, i Maya ci hanno predetto le sventure peggiori, ma noi non ci crediamo. Sì, sì, sì, ci crediamo un pochettino. Vabbè, dimmelo te. Io ho paura. Ci crediamo. Devo dire che ho paura. Vabbè, vediamo se lo riconoscete, va. Dai, squillate 0649 1750, sempre che vi piaccia. Con alieni adepti che sguaiano con i la fine di Gaia non arriverà. La fine di Gaia non arriverà. Né con i passi di Godzilla, né coi passi della Bibbia, Gaia sopravviverà. A questi cazzo di asteroidi che non hanno mai schiacciato neanche una farfalla, sei tu che tratti Gaia come una recluta naia. Ami il petrolio ma la paia non è una caldaia, la tua mannaia, l'Himalaya, mica l'Himalaya. Gaia si salverà, chi salverà il soldato Ryan. Non i marziani ma te, dovrò respingere. Non i marziani ma te, dovrò respingere. Eh sì, la fine di Gaia non arriverà, noi ne siamo tutti convinti, ma in realtà sotto sotto ci crediamo. E allora buon anno a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, e godetevi questo cazzo di 2012, che sia un anno migliore. Non pensate alla manovra Monti, ma che ve frega a voi, insomma. Su, sorridete, un bel sorriso e uno squilletto a Radio Onda Rossa 0649 1750, per un migliore 2012. E vi ripeto, godetevelo, perché metti che il 21 dicembre alla fine arriva l'asteroide veramente, noi che famo? Cioè, che fai? Pensi, passi il 2012 a preoccuparti per l'economia, eh? Poi schiatti il 21 dicembre e è finita là. Infatti, perciò nessuno ci deve più pensare. Godiamoci questo 2012 e vai, ragazzi, vai! E dai, allora, da un ultimo album dei Gong, The Year 2032, in inglese non ve lo dico perché a scuola non ci insegnano a contare. Va bene, allora, Gong, City of Self-Fascination. sentiamo lontani, entrate in contatto con noi 0649 1750, un piccolo squilletto a gratis se vi piace questo pezzo e se insomma vi state divertendo, perché a noi ci farebbe piacere innanzitutto che voi vi divertiate durante le nostre trasmissioni. Assolutamente sì, divertitevi con Radio Onda Rossa 87.9 FM. Caffè doppio. You can travel to the planet that I could back its dawn. Don't beat me up, Scotty, cause I'm gonna stay home. I said you betcha. I say we do it again. I say we do it again. I'm gonna let ya. I think you're crazy, but see, it's a free. A caffè doppio piace questo squilletto. Across the world, wondering why you block out the sun, fight the light, jump out the beautiful sky to take another bite, teaching all the kids to live by the night, be frightened of the dark in the black of light. Shut up your face, don't lose your place. You better be so afraid to talk, better be very frightened to walk the bar. Get in the car, go to the bar, drink it up, big daddy. It's just your body of the better than a vanity boutique. Up shit creek, looking bleak, no brain rain coming, no looking back. It's a boys to die, they play like a rugby league. Play kind of make it all in your head. No sweet dreaming in your bedstead. No love made here, just a long dark night of the capitalist pain on a planet of unreal material gains. On an alien nation to the city of adesso sì che vi sentiamo un po' più vicini, 87.9 di Radio Onda Rossa, 0649 1750, il numero da far squillare fino allo sfinimento per caffè doppio. 17:31 minuti primi, dopo essere stati in Francia, Australia, Inghilterra e America, torniamo un attimo nel nostro bel paese con un pezzo della banda Bordeaux. Stoppa tutto, stoppa tutto, stoppa tutto, stoppa tutto. La donna del porto a mani ghiacciate, che scalda mostrando le sue nudità. Odore di sesso e dell'ultimo amore iniziato e finito qualche minuto fa. Milagros è l'unica ispirazione per mariti assorti dalla fedeltà. Regala sorrisi e filtri d'amore, fa sciogliere i voti di castità. Ehi, escono in tanti la sera in città, stracciati d'amore per lei che verrà. Fino all'ultimo grido che gli porterà e mai più niente di loro si sa. Escono in tanti stasera in città, stracciati d'amore per lei che verrà. Fino all'ultimo grido che gli porterà e mai più niente di loro si saprà. Ed eccoci di nuovo in collegamento con Caffè Doppio. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 FM e sono le 17:35 minuti. Naturalmente con questo pezzo ci siamo scatenati e io sto morendo. Tutte e due col fiatone, Tameto e DVX per Caffè Doppio, la sveglia giusta dopo una sbornia da paura di sabato sera. Torniamo un attimo in Francia con i Tarmac. La quiete dopo la tempesta. Ciao a tutti di nuovo in collegamento con Caffè Doppio e dopo essere passati dalla Francia adesso continueremo la nostra intervista sempre per parlare del mondo musicale e dell'emergenza sia in Italia che nel resto del mondo. Beh, allora direi che, visto che prima ho intervistato te, ti potrei fare una domandina io, se hai studiato, se no ti metto impreparato e ti mando apposta, che adesso professore, ieri... ma c'è caffè doppio? Io non posso essere interrogato durante caffè doppio. Come no? Professore... Io faccio come mi pare. Io faccio quello che mi pare. No, lei non fa come gli pare, perché questa è la nostra epoca, è la nostra rivoluzione! Vabbè, scommetti che la domanda la sai. Parlami della... Come si fa il caffè? Prendi la moca, la giri, metti il caffè, l'acqua, fino alla valvola. Sì, finché sei sobrio va bene, però quando ti svegli la mattina che devi fare tutto al buio perché se apri gli occhi muori, come fai? Con le mani? L'ho sempre fatto, lo sai. Tasti tutto e butti giù i bicchieri. Anche quello. Fantastico, il casino delle pentole che ti urleranno addosso tutti. Ma quando mai le pentole urlano? Tameto, le non pentole. È che oltre all'alcol è andato in corpo qualcos'altro ieri sera? Nah, ma che davvero? No, quelle sostanze... Bando alle ciance, parliamo di... Vabbè, dai, parliamo di musica. Insomma, anche tu sei musicista. Gran parte dell'esperienza musicale l'abbiamo passata insieme. Ma tu, al mio contrario, invece di cambiare strada, insomma, io sono andato sul teatro, tu perseveri comunque con la musica. Allora, raccontaci come va. Allora, diciamo che io ho una strada abbastanza travagliata. Sono partito come cantante. Naturalmente la mia voce... non era esattamente giusta per cantare. No, bellissima la tua voce, dai. Ah sì? Allora perché sì. Mi dici che sembro un cantautore napoletano? Io te lo dico. Sì, l'avete sempre detto. Comunque... Io mai detto. O almeno non me lo ricordo. Chissà perché non te lo ricordi. Gli ultimi neuroni sono andati ieri sera. Però, a parte queste castronerie, niente, la mia strada nel campo della musica è iniziata... cantando, appunto, e nella band in cui cantavo mancava il batterista. Allora io per un mese, due mesi volevo soltanto sostituirlo facendo dei ritmi molto semplici, molto basici. Poi è diventata una passione, è diventata un amore sconfinato nel mondo per la musica e soprattutto per il mio strumento, la batteria. Io sono innamorato, perso, appunto, porto un anello che è un pezzo della mia batteria in questo momento. È come se fosse una fede. Come se fossi sposato con la mia batteria. E naturalmente tutto quello che ha raccontato già Matteo, ci siamo incontrati a una scuola di musica e il percorso musicale è stato abbastanza travagliato. Adesso lui ha deciso di prendere la recitazione, teatro e questo mondo che è ancora più insidioso, a mio avviso, della musica, mentre io continuo con il campo della musica. E naturalmente non chiuderò mai le porte alla musica nella mia vita, però penso che in un mondo, soprattutto in Italia, e quello che stiamo vivendo adesso noi musicisti, sia molto complicato. E infatti so che stai progettando di andare all'estero. Sì, sto progettando di andare all'estero. Certo, è una scelta molto complicata e... Tra l'altro, insomma, scelta che sto pensando anch'io di fare per il teatro, perché, insomma, lo sappiamo benissimo che negli ultimi anni, nonostante l'Italia sia uno dei paesi più acculturati, possiamo dire, dal punto di vista artistico, insomma, uno pensa molto alle arti, insomma, di base che ci vengono più in mente, se metti la pittura, l'architettura e la scultura, vabbè, siamo... Ma anche la musica, eccetera, gran parte della musica è nata in Italia. Esatto, eppure... proprio quello volevo dire, insomma, musica e recitazione anche sono due arti di cui l'Italia è piena, ma purtroppo negli ultimi anni sono andate... Questo è venuto meno. Un po' distrutte. Sicuramente questo è venuto meno. E adesso vorrei presentarvi un album dei King Crimson, l'album di debutto della band, che fu In the Court of Crimson King. Solo che io sono rimbambito e te sto a mettere il pezzo sbagliato. Ti ho fatto un bello scherzetto. Allora ridillo un po'. L'album di debutto della band In the Court of King Creep Creep Creep basta! va bene, basta che te scaldi, insomma. Aspetta che ti metto un minuto giusto, che questo qui parte tardissimo, vai, dici. 21st Century Schizoid Man. Ballate tutti con questo pezzo! e mi sa che pure loro il sabato sera gli davano parecchio giù. Insomma, avete sentito il finale di questa canzone, di questo bellissimo pezzo dell'album di esordio dei King Crimson. E arriva anche per il prog degli anni 70, un bello squilletto. Ringraziamo colui, insomma, il fautore di questo bellissimo squilletto, unico in tutta la canzone. Insomma, ci piacerebbe averne di più, ecco, fateci compagnia. 0649 17 50, il numero di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 in FM, oppure ci state ascoltando dal sito www.ondarossa.info. E allora, oggi sono un po' fissato con la Francia, penserete, però torniamo con un pezzo un po' meno schizofrenico, io direi, se anche DVX è d'accordo. Ma a me piace la schizofrenia. È un po' blu. È un po' blu. Ma il blu non è viola. Però assomiglia al verde. Allora mettilo. Dai, allora Kevin Ayers con May I. Aspettate che finisce il rumore del camion e poi inizia. Brum brum. Allora, sempre se vi piace Caffè Doppio, se vi piace Kevin Ayers, 0649 17 50. Siamo contenti che vi piaccia. Sono arrivati un sacco di squilli qua in trasmissione. Devo dire che questo francese ha dato giù di bestia. No, comunque, Siamo di nuovo in diretta con Caffè Doppio, le 17:54 minuti. Invito tutti quelli che hanno ascoltato la trasmissione oggi e quelli che lo faranno anche nei prossimi giorni, nelle prossime domeniche, a iscriversi al gruppo Caffè Doppio su Facebook, e tra poco avremo anche una mail in cui si potrà parlare, disquisire su questo mondo della musica emergente, e in più tutti i musicisti che hanno voglia di portare la loro esperienza qua in radio da noi sono invitati a farlo. Naturalmente accettiamo chiunque voglia dire la propria esperienza nel mondo della musica. Certo, insomma, io lo voglio ripetere ancora una volta, è proprio questo che vogliamo fare innanzitutto, dare spazio ai giovani emergenti che non riescono, insomma, sono molto in difficoltà a sboccare nel mondo della musica. E a sboccare nel mondo della musica non è bellissimo da dire, però facciamo finta di niente. Beh, senti, è la parte del linguaggio del cervello, ormai non c'è più, insomma, oltre ai neuroni. Ma quella, cioè, da anni. Tu non hai più memoria, io non ho più la lingua. Chi non ha più memoria? Tu. Io? Eh? Sei sicuro? Sì. Ma chi sono io? Ti ricordi che non hai più memoria? Almeno questo ricordatelo. Ma chi? Vabbè, ciao. Vabbè, niente, ci avviamo in chiusura, purtroppo. 17:55 minuti primi e 45 secondi, ora 46 e poi 47. 87.9 Radio Onda Rossa, 0649 1750, il recapito telefonico ondarossa@ondarossa.info, il sito internet, no, che ho detto, il sito internet, sì. L'indirizzo email www.ondarossa.info, il sito invece. E ricordo a tutti di iscriversi alla nostra pagina di Facebook Caffè Doppio, cercatela in tanti, seguiteci come avete fatto oggi, siete stati meravigliosi, tutti siete stati meravigliosi, ci avete seguito in tanti e ci sono arrivati tanti squilli in redazione, siamo veramente troppo contenti. Ci fa piacere che la musica che abbiamo scelto per voi vi sia piaciuta, e allora facciamo... diamo un attimo spazio a un annuncio dalla radio. Vi ricordiamo che Radio Onda Rossa si tiene in piedi grazie ai contributi degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e allora chiunque non l'avesse ancora fatto o chi lo volesse fare un'altra volta può contribuire dal sito, nella sezione sottoscrivi a Radio Onda Rossa, oppure tramite un conto corrente postale 618-04001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185. Come dicevo, ci avviamo in chiusura, ascoltiamo un ultimo pezzo, stavolta di nuovo un po' più schizofrenico, così DVX è un po' contento. Ci ascoltiamo un pezzo di Portishead prima della sigla. Che bello. Did you sweep us far from your feet? si conclude così quest'ultimo pezzo con i Portishead Cowboys. E allora, siamo proprio in chiusura, gli sgoccioli, prima di mandare la sigla di chiusura, sempre offerta dall'amorevole Collo, Lollo, Ollol, On Erols, insomma, che, come lo vogliate chiamare voi. Un saluto a tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato. E, non lo so, vogliamo ripetere un attimo i nostri contatti? Allora, il primo contatto... Aspetta, mi sa che non ti sta funzionando il microfono, parla di qua. Il contatto principale è su Facebook, Caffè Doppio. Cercate la nostra pagina fan e parlateci. Diteci tutte le vostre esperienze, contattateci, mi raccomando, è importante perché la radio che facciamo noi è la radio vostra, siete voi che dovete dirci quello che volete. È proprio così, è lo slogan di Radio Onda Rossa che noi condividiamo appieno, la radio di chi se la sente. E allora un saluto a tutti e tutte, se volete contattare la radio potete farlo tramite telefono sullo 0649 1750 o tramite posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Speriamo vi siate svegliati, insomma, che questo caffè doppio vi abbia fatto bene. Adesso siete pronti domani a tornare a scuola o tornare al lavoro dopo il fine settimana o tornare all'università dopo il fine settimana. E chi ci torna all'università? Va bene, allora bando alle ciance, vai con la sigla. Alle 18.03 minuti primi e 32 secondi chiude caffè doppio. Ci vediamo domenica prossima. Dalle 17 alle 18. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè è la seconda materia prima trattata sui mercati finanziari. 70 milioni di tazzine al giorno. Se non prendo il caffè non riesco a carburare. Il caffè, il caffè. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali? The soul.